Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Siete proprio sicuri che gli italiani non amino la condivisione? Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Questo è l'interrogativo che ha ispirato il primo evento dedicato in Italia alla cosiddetta sharing economy, l'economia collaborativa, con l'intento di sfatare appunto il pregiudizio che vuole gli italiani molto legati al possesso. Noi c'eravamo, abbiamo raccolto i numeri, i nomi, le voci di un settore che rappresenta al meglio il cambiamento degli stili di consumo e di vita verso modelli più sostenibili a livello sociale e ambientale. Siete pronti a comprare formiche e cavallette al supermercato? Uno scenario molto più vicino nel tempo di quanto possiate immaginare. È una delle scommesse nutrizionali dei prossimi anni, una volta cadute le resistenze culturali occidentali, resistenze che l'estetica, la moda, l'arte, il design sta già contribuendo ad abbattere. Nel focus sui trend della settimana parliamo appunto di insettomania. E in chiusura nuovo appuntamento con l'Italian Factor di Francesco Morace. Inizia la seconda tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'italianità perduta. La borsa della spesa. Ieri mattina mia figlia ha disegnato un pollo con un sacco di gambe. Le ho contate? 4. Non so perché, ma quel disegno mi è rimasto in mente. Viaggeremo per il mondo e saremo ospiti di famiglie contadine, gruppi di artisti, fattorie ecosostenibili. La moneta del tutto sarà il baratto. Dal crowdfunding per finanziare il progetto allo scambio della nostra casa con altre famiglie. Aiutaci a fermare il pollo a 4 zampe. Partiamo da qui per parlare di sharing economy, da unlearning, il viaggio che una famiglia genovese, Lucio, Anna e Gaia, sta per fare all'insegna della condivisione in tutto e per tutto. La moneta del viaggio sarà il baratto, il documentario che nascerà dal viaggio è finanziato dal basso attraverso il crowdfunding. Vogliamo sdoganare gli strumenti della sharing economy anche per le famiglie, ci ha detto Lucio Basadonne, il capofamiglia che è anche il regista del documentario. Il documentario racconta un viaggio di 6 mesi, familiare, quindi io, mia moglie e mia figlia, che facciamo utilizzando gli strumenti della sharing economy, ovvero sia dai passaggi all'ospitalità in altre famiglie in cambio di lavoro, all'utilizzo dello scambio linguistico online, quindi io ti parlo in italiano, tu mi parli in inglese, al baratto per avere gli oggetti che ci servono per viaggiare, allo scambio di banca del tempo, perché chi ci organizzerà il viaggio in cambio noi faremo altre cose, quindi tutto utilizzando questi sistemi e vedere se funzionano, anche per sdoganarli un po' a livello familiare, visto che c'è un po' il problema della fiducia. Questo è un po' una guida per famiglie che dicono: ah, ok, si può fare così, una famiglia può viaggiare e prendere un passaggio, figo, una famiglia può scambiare competenze, bello. Unlearning è cambiare il proprio punto di vista. Noi siamo una classica famiglia di città, con i suoi ritmi, con l'asilo, il nostro posto di lavoro, eccetera. Andremo a vivere con altre famiglie che hanno scelto un altro tipo di vita, principalmente puntata o sull'ambiente o comunque su un mondo più a misura d'uomo. E poi al nostro ritorno vedremo che cosa è cambiato nella nostra vita. Sono 250 le piattaforme collaborative in Italia, secondo la ricerca presentata dall'Università Cattolica Asher Italy. Sono piattaforme di scambio e condivisione, di autoproduzione o di crowding, cioè di creazione o finanziamento collettivi. E fra gli italiani la propensione alla condivisione sta aumentando. Il 13%, rivela un'altra ricerca, ha utilizzato almeno una volta i servizi che permettono di scambiare e condividere i beni. Mobilità, alloggio e scambio di oggetti usati, le attività più praticate. Presto non sarà più un fenomeno di nicchia, ci dice Federico Capeci di 2.0 Doxa. Sono più che pronti, abbiamo 4 milioni di italiani che già stanno mettendo in pratica la sharing economy e oltre questi ci sono altri 3 milioni di italiani che lo vivono in maniera aspirazionale, per cui tenderanno a farlo presto. Ci sono alcune piccole barriere da superare, ma la prima è di conoscenza, non conoscono ancora nel dettaglio di cosa stiamo parlando, e l'altra di rassicurazione sulla fiducia di condividere una cosa che magari si è speso tanto per potersela permettere. Però la propensione di base è molto molto forte, siamo un paese fatto di collaborazioni, di community e di aiuto reciproco, per cui su questo basa anche questo fenomeno. Quali sono le dimensioni del fenomeno? Siamo ancora in una fase di early adopters o stiamo andando oltre? Ma abbiamo definito il momento del tipping point, cioè il momento esatto in cui la diffusione dell'innovazione può realizzarsi o meno, quindi siamo in una situazione in cui abbiamo già saturato gli early adopter, il 13%, e siamo pronti a fare il passaggio. Se aiutiamo questo fenomeno evidentemente a diffondersi verso le fasce più paurose della nostra popolazione. It's always more fun to share. It's always more fun to share with everyone. If you have one, here is something you can learn. You can still share just by taking turns. Quello che è certo è che l'economia collaborativa sta cambiando la cultura del consumo, diffondendo pratiche più consapevoli, basate sul riuso piuttosto che sull'acquisto e sull'accesso al bene piuttosto che sulla proprietà. Una risposta alla crisi per alcuni e un nuovo modello economico per altri. Ancora molti i nodi da sciogliere, primi fra tutti il quadro normativo e fiscale di questi servizi. Per Marta Mainieri, fondatrice di Collaboriamo, la piattaforma che riunisce i servizi collaborativi italiani, promotrice dell'evento, la sharing economy in Italia è un mondo ancora tutto da scoprire e raccontare. La sharing economy è arrivata in Italia ormai da qualche mese e nessuno lo sa, nel senso che ancora tanti, quando vado ai convegni, mi chiedono: ah, ma gli italiani sono pronti a condividere? E la maggior parte delle persone sono scettiche. Invece io so che ci sono tantissime startup che stanno lavorando, tantissime startup collaborative che stanno lavorando e stanno crescendo, so che si sono formato opinion leader che parlano di economia della condivisione, so che può essere un'opportunità per le start-up, per i giovani, ma anche per amministrazioni e grandi aziende. La sharing economy crea reddito, 3 miliardi e mezzo negli Stati Uniti, secondo la stima pubblicata da Forbes. Due anni fa il Time la definì una delle 10 idee che cambieranno il mondo. Si va dalla condivisione di posti letto, stanze, case di ogni genere, Airbnb, a quella degli spazi di lavoro, liquid space, o della terra coltivabile, land share. Poi c'è la condivisione del tempo e delle abilità, TaskRabbit per i lavoretti, Skillshare per insegnare, fino alla condivisione di beni, tutti i servizi di car sharing, baratto e noleggio, e al finanziamento di idee e progetti Kickstarter, solo per citarne una. Queste esperienze stanno anche spostando il confine tra pubblico e privato. Hanno ricadute sociali importanti sul coinvolgimento degli anziani, ad esempio sul welfare familiare. A Share Italy, April Rinni, tra le principali esperte di sharing economy al mondo, è Chief Strategy Officer di Collaborative Lab, il laboratorio di consulenza e innovazione sociale fondato da Rachel Botsman, che è l'autrice di What's Mine is Yours, Quello che è mio è tuo, il libro manifesto della sharing economy. April Rinni, dicevo, ha parlato anche del nuovo scenario che si sta aprendo, le shareable cities, perché anche lo Stato e la pubblica amministrazione sta scoprendo come gestire i servizi attraverso la sharing economy. Last week I spoke with people in the White House, actually. La settimana scorsa ne ho parlato con alcune persone alla Casa Bianca. Bisogna tenere in considerazione che la maggior parte delle leggi e dei regolamenti sono tarati sulle città. Ecco perché è importante avere nelle città una leadership che sappia comprendere quello che sta succedendo, così come a livello del governo centrale. Negli Stati Uniti i leader a vari livelli se ne stanno rendendo conto. Sharing economy can change the world. It can. It really can. I think what penso che la sharing economy possa veramente cambiare il mondo. Ciò che è più entusiasmante in questa, che è una grande sfida con molte potenzialità per ogni singola iniziativa, è il potere e la portata del cambiamento. Molto nella nostra economia può cambiare. Ci sono molti modi tradizionali di produrre e di consumare, ma noi possiamo dimostrare che anche modi totalmente diversi da quelli tradizionali possono creare valore. But it's not tracked in the same ways that traditional macroeconomists would look at. So there's a tension, but I'm ci sono delle criticità, ma sono sicura che saranno superate, perché la sharing economy e il modo in cui stiamo creando valore e sbloccando ricchezza ne sono la prova. La prova è nelle azioni, nei fatti, nel vedere questo tipo di lavoro nelle comunità che si stanno creando in tutto il mondo. Molto presto mangiare gli insetti non sarà più una pratica esclusivamente orientale, bensì una necessità nutrizionale diffusa anche in Occidente. Dai locali e ristoranti di tendenza dove insaporiscono cocktail e piatti di grido, formiche, grilli e cavallette iniziano a farsi vedere anche negli scaffali dei supermercati. Moda, arte e design ci stanno già pensando. Restate con noi perché tra pochissimo nel Focus sui Trend parliamo di insettomania. Essere e avere. Studio con essere e avere, la tendenza della settimana mette a dura prova molte delle vostre convinzioni. Focus sui trend. Ve lo ricordate il video di Lullaby dei Cure? Andatelo a rivedere sulla nostra pagina Facebook. È l'ispirazione, la colonna sonora del Focus sui trend di questa settimana dedicato all'insettomania. Da sempre presenti nel mondo dell'alta gioielleria, gli insetti sono sempre più presenti nella moda, nell'arte e nell'estetica contemporanea. E sul consumo degli insetti come cibo, pensate, stanno cadendo anche le barriere occidentali. Non più solo moda per fare colpo nei locali e nei ristoranti di tendenza, formiche e cavallette presto, dicono gli esperti, compariranno negli scaffali dei nostri supermercati. Ne parliamo come sempre con i ricercatori di Future Concept Lab, Valentina Ventrelli, ben ritrovata. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Insettomania, Valentina, quali sono i segnali di questa presenza? Beh, ma come giustamente ricordavi tu, la fascinazione per gli insetti arriva da molto lontano e ha caratterizzato davvero moltissime civiltà antiche, dall'Egitto a molte antiche popolazioni dell'Europa, anche perché agli insetti venivano imputate anche simbologie, poteri divinatori, e in effetti ci sono arrivati moltissimi monili, decori, gioielli per il corpo. C'è da dire appunto che poi nell'Ottocento, sull'onda delle tesi evoluzionistiche di Darwin, sono stati ripresi in alta gioielleria, fanno parte proprio della storia della gioielleria, delle estetiche, e questo è il motivo per cui poi ciclicamente la moda ha ripreso appunto l'ispirazione che arrivava da questo mondo, e fino ad oggi, voglio dire, pensiamo all'ultima collezione di Lanvin, che ha stampato queste creature meravigliose su tessuti di ogni genere, anche gioielli, ancora una volta, accessori, piuttosto che Prada, che con Damien Hirst ha proposto una straordinaria collezione di borse decorate, impreziosite da queste creature. Vi segnalo questa mostra bellissima a Londra, che fino al 31 gennaio, credo, di questo artista francese Edouard Martinet, che ha proposto queste sculture di insetti realizzate con materiali di scarto del mondo automobilistico e delle macchine in genere. Allora, al di là della bellezza, ribadisco, degli oggetti, infatti la cosa interessante qui è proprio una sorta di chiusura del cerchio. Non dimentichiamoci che il mondo dell'entomologia ha ispirato moltissimo il mondo delle automobili, delle macchine in genere, prestando non solo forme, funzionalità e colori, ma anche spesso i nomi, cioè ricordiamo il mitico maggiolino, piuttosto che l'ape, piuttosto che tutta una serie di autoveicoli che appunto omaggiavano e traevano ispirazione dal mondo degli insetti. L'estetica potrebbe rappresentare la porta per cui far cadere le resistenze al consumo di insetti come cibo? Senz'altro, anche perché non dimentichiamoci che moltissimi paesi, moltissime culture già prevedono insetti nella loro dieta alimentare. Allora si è aperto un grandissimo dibattito, gli insetti sono fonte di proteine, sali minerali, cioè sono dal punto di vista della nutrizione degli elementi straordinariamente potenziali. Dico potenziali perché ovviamente c'è una barriera, come giustamente ricordavi tu, culturale molto forte. Tutto l'Occidente non ha consuetudine, anzi c'è poi tutto un mondo anche di tabù su questo. Indubbiamente è uno dei grandi temi che si stanno dibattendo in questo momento, perché per le risorse del pianeta, per tutta una serie di opportunità, potrebbero essere uno degli alimenti del futuro. Certamente sono barriere importanti che sicuramente potrebbero essere in qualche modo aiutate dal mondo dell'estetica, e infatti ci sono moltissimi esempi che su questo stanno lavorando. C'era un bellissimo progetto di questi 4 studenti inglesi che hanno dato vita a questa società che si chiama Ento, fanno i food designer, e hanno, partendo da queste ricerche sulla nutrizione, hanno proposto a grandi chef internazionali di interpretare delle ricette all'interno di queste Ento box, partendo ancora una volta dalla cultura giapponese delle bento box, delle ricette a base di insetti. Questa cosa la stanno portando in giro per il mondo, ma ce ne sono molte altre anche nei supermercati. Come ricordavi, non è tanto futuro, è già presente, perché in Francia sono apparsi fantastici dolcetti e macaron a base di insetti nelle grandi catene della grande distribuzione. Anche Carrefour hanno cominciato a distribuire appunto dei dolci molto belli, molto estetici. Allora chiaramente l'estetica può essere una leva potente per aiutare a far crescere da un lato la consapevolezza, dall'altro anche a far cadere quelle famose barriere culturali che l'Occidente ha indubbiamente nei confronti degli insetti. Sicuramente lo scambio, che oggi è sempre più rapido, anche fertile, tra Oriente ed Occidente, potrebbe anche regalare al mondo una nuova forma proteica e nutrizionale. Italian Factor. Ben ritrovato, diamo subito il benvenuto, ci ha raggiunto in studio come sempre a questo punto Francesco Morace. Buon pomeriggio Francesco. Buon pomeriggio a tutti voi. Italian Factor è il nostro viaggio alla ricerca dell'italianità perduta, il nostro manifesto a puntate, potremmo definirlo, per aziende, prodotti e consumatori. Un viaggio che intende individuare ed ispirare i valori dell'eccellenza del Made in Italy. È un percorso fatto di virtù da valorizzare, innanzitutto le abbiamo descritte tutte e 8 nelle scorse settimane, costituivano in qualche modo la premessa per l'individuazione degli 8 fattori potenziali. La nostra seconda tappa, Francesco, innanzitutto che cosa lega virtù e fattore? Qual è il raccordo, lo scatto di questo percorso? È proprio qui che è importante ragionare in termini di Italian Factor, perché le virtù noi le possediamo, sono delle qualità psicologiche, ma molto spesso non capiamo che fuori nel mondo possono diventare fattori di moltiplicazione del valore e quindi di queste stesse qualità. E quindi oggi cominciamo il nostro percorso su questi elementi potenziali che possono aiutarci a vincere nel mondo. Il fattore di oggi, da dove iniziamo? Iniziamo dalla prossimità. La prossimità è una ormai richiesta che emerge a livello globale ed è interessante perché è l'altra faccia della tecnologia. La tecnologia ci permette di intervenire in un mondo che è astratto, che è disincarnato e spesso è molto lontano, ma quasi sempre implica questo grande ritorno sulla prossimità. Quindi le persone anche nei social network, ad esempio, incontrano certamente nuovi amici, ma rafforzano anche i loro legami con parenti e conoscenti. Ci sono alcuni oggetti e prodotti che sono icone di questa prossimità. Sicuramente la bicicletta, e quindi l'idea di un rapporto col territorio, con la città, anche con la mobilità, che 10 anni fa nessuno avrebbe immaginato, no? La bicicletta ti permette di essere parte di un paesaggio vivo e anche di frequentare i dintorni, ad esempio, della tua residenza, e questo si porta dietro anche alcuni cambiamenti nel retail, ad esempio i supermercati di quartiere e gli stessi mercati rionali tornano ad essere dei punti di riferimento per le persone, ma anche le feste di condominio, che francamente non avremmo immaginato qualche anno fa. Penso anche alla piazza, allo spazio pubblico. La piazza è uno degli elementi così connotativi per l'Italia. Questo ci viene riconosciuto dall'estero, spesso noi non ce ne rendiamo conto. È proprio così. E infatti il tema della prossimità può essere sintetizzato in un'espressione che è lo human touch, no? Questa dimensione umana di relazione calda che noi abbiamo, la piazza ma anche i bar, no? E in Italia le grandi discussioni si fanno al bar. E quindi da questo punto di vista dobbiamo sempre rivalutare un nostro modo di vivere e però applicarlo in una visione più larga. Francesco Morace, grazie, a sabato prossimo. Grazie a voi. E grazie anche a Paolo Corleoni in regia. Trovate come sempre link, immagini e contributi aggiuntivi sulla nostra pagina Facebook, dove potrete anche riascoltare la puntata. Dal sito radio24.it la potrete scaricare. Tutto questo in attesa di risentirci sabato prossimo. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzale.